238esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canti della nostra terra nell'interpretazione del coro Antonio Hillersberg. Il coro, di cui oggi ascolterete, cari emigrati, alcune esecuzioni, è stato costituito nel 1962 in seguito alla fusione della corale Carniel e del coro Montasio, entrambi essi pure di Trieste, ed è uno dei più apprezzati fra i tanti dell'intera regione Friuli Venezia Giulia. Porta il nome del musicista triestino Antonio Hillersberg ed era diretto da Lucio Gagliardi. Il repertorio di questo coro è assai esteso e vario. Ha attinto alle più significative pagine sacre e profane di autori dei grandi secoli della polifonia, mentre nel folklore comprende canti internazionali, canti della montagna, canti regionali italiani, ma soprattutto le villotte friulane e le canzoni triestine eseguite con particolare calore, brio e vivezza, come avrete modo ora di sentire, iniziando dalla prima serie di Gotis di Rosade di Cesare Augusto Seghizzi. Poi la polizia questa raccolta di vecchi motivi popolari farà seguito una delle più belle composizioni di Arturo Zardini, l'autore di Stelutis Alpinis, di cui nel prossimo ottobre ricorre il cinquantenario della scomparsa. Vi è descritto, su versi di Pietro Zorutti, il senso di profondo mistero che compenetra l'uomo di fronte alla suggestiva notte di primavera. Gnot d'Avril di Arturo Zardini. E concludiamo questa breve rassegna con una caratteristica composizione che il coro Hillersberg esegue con particolare maestria e che non trova facilmente riscontro nelle pur vaste raccolte di folklore finora apparse. Non si conosce il nome di chi la compose oltre 100 anni fa, quando nel 1864 venne inaugurata la linea ferroviaria Trieste-Vienna. Ecco la strada ferrata. Adesso che abbiamo la strada ferrata, in mezza giornata se viene se va. Adesso che abbiamo Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ottavio Valerio.